Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 28 gennaio, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Io sono sempre Caterina Bombarda e qui con me c'è sempre Ignazio De Francesco da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. Salam aleikum, good morning a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E bentornati a Liberi Dentro Duradio, che questa volta è giunta la sua seconda settimana di trasmissione, perché siamo ripartiti il 18. E mi raccomando, non siamo soltanto noi, vero Ignazio? Perché poi a febbraio ripartiranno anche i laboratori di Liberi Dentro, siccome i detenuti e le detenute ci hanno chiesto di riportare tutte le attività che prima facevano parte del loro panorama di quelli che sono chiamati servizi rieducativi alla persona e che ritorneranno con mezz'ore di puntate sulla televisione e sulla radio. E certo, ci saremo tutti, ci saranno Cantieri Meticci, il Teatro dell'Argine, Paolo Pilli, Teatro del Pratello, Foman con la cucina, l'Abuc, il Poggeschi, Altro Diritto, l'Equipe Sanitaria, le vostre amiche, le vostre mamme che si occupano della salute in carcere saranno anche loro, quindi sì, aumenta la programmazione. Aumenta. Oggi Ignazio, io vorrei parlarti di bellezza, perché sulle notizie, sulla cronaca bianca che leggo da Repubblica, l'articolista Ilaria Sesana titola il suo articolo "La bellezza non va mai in prigione". Perché? Lei parla del carcere milanese San Vittore, che in questi ultimi anni ha stabilito un rapporto con la Triennale di Milano, che, ricordiamo, la Triennale è un'istituzione culturale internazionale che produce mostre d'arte, eventi, design. E perché si è creato questo rapporto? Perché in qualche modo vogliono rilanciare un'immagine diversa delle carceri, in particolare del carcere di San Vittore. E infatti il 2021, quest'anno, si apre con una sfida, cioè che è quello di fare un concorso di idee, San Vittore, spazio alla bellezza intitolato, rivolto a progettisti, architetti, designer, urbanisti, con l'obiettivo di promuovere una nuova concezione della casa circondariale attraverso la riprogettazione degli spazi. Ed è molto singolare quello che dice infatti Lorenza Baroncelli, che è la Lorenza Baroncelli, direttore artistico della Triennale di Milano, che dice: la bellezza è uno strumento fondamentale per trasformare i destini delle persone. Cioè, pensate voi, quello che ci circonda ci trasforma, no? Nessuno di noi pensa a far diventare San Vittore un albergo a 5 stelle, dice, però partiamo dalla bellezza per considerare un posto sano, quello in cui viviamo, progettato per vivere una quotidianità degna e dignitosa. Quindi molto bella questa cosa che dice. Mi fai venire in mente, così per associazione, questo tema della bellezza, proprio quello di cui volevo parlare anch'io oggi, un altro verso, il matrimonio in Nigeria. Matrimonio in Nigeria, che è la festa della bellezza. Dovremmo far vedere poi delle fotografie, ma chiediamo a tutte le persone attualmente temporaneamente recluse di raccontarci la storia dei loro matrimoni, perché in Nigeria il matrimonio è un evento straordinario, pazzesco. Ecco, se si guardano i vestiti delle spose, degli sposi, i colori, le torte a 32 piani, è la grande festa della bellezza. Pensate, bisogna fare mente locale. Quando si parla di Nigeria, si parla mica di un paesetto, ecco, piccolino, ecco, come l'Italia, un fazzoletto come l'Italia. Un paese diviso in 36 stati. Ognuno dei quali ha i propri usi e costumi. È un paese che si sta evolvendo molto, ma che è anche molto attaccato ai propri usi. E nel momento del matrimonio, la bellezza dei matrimoni, esplode questi usi e costumi locali. Tra l'altro, tra i costumi così che mi incuriosiscono, c'è anche quello di presentarsi senza essere stati invitati. Ecco, c'è anche questa cosa, ci si presenta e il matrimonio diciamo in Nigeria è così largo che dice: bene, benvenuto, siediti con noi, fa festa con noi. È una cosa molto singolare questa, perché in Italia, per esempio, nella nostra cultura non è considerata una cosa così elegante presentarsi, soprattutto i matrimoni, senza l'invito, vero? Quindi fa riflettere questa cosa che ci dici, perché. Soprattutto quando sono le persone anche povere, che però nel momento della festa vogliono fare la festa con tutti e quindi non ci vuole il biglietto d'ingresso, tutti sono invitati. Bellissimo. E noi passiamo allora adesso al nostro primo brano musicale di oggi, sempre con Wadi Al-Safi. Introducimelo tu. Che sì, la oyuni ghariba, la sauti gharib, i miei occhi non sono estranei né la mia voce lo è. Musica. E rieccoci sempre sulle note di Wadi Al-Safi, siete sempre su Liberi Dentro Edu Radio, siete con noi per questa mezz'ora quotidiana e oggi torniamo sul filone letterario, culturale della virtù della pazienza, sempre con te Ignazio. La scorsa volta Sì. abbiamo parlato della pazienza di Giobbe e oggi invece. Oggi torniamo su questo tema, parleremo un po' di un personaggio che scopriamo, vediamo, facciamo anche un indovinello che ci arriva prima, molto importante anche per chi sta in carcere. Questo detto arabo dice così: As-sabru sabran, as-sabru ala al-musiba, hasan, wa afdalu min dhalika as-sabru anil ma'asi. Allora dice: la pazienza è di due tipi. C'è la pazienza nella sventura. Ti muore un figlio, perdi il lavoro, hai un incidente sul lavoro. In questo tanti gli arabi ci sono veramente molto maestri. Non si bestemmia, non si impreca, non si, si dice Alhamdulillah, si hanno rese lode a Dio. Adesso non voglio ferire i sentimenti di chi non crede, di chi è ateo, ovviamente, questo c'è spazio per tutti, ma veramente. E questo rimettersi a Dio è un evento che è stato scritto per me da Dio, lo accetto. E quindi si può dire, quando arriva l'arresto, quando arriva la condanna, quando arriva il periodo da fare in carcere, non è bello, ma si può dire, Dio mi ha fermato sulla via, Aukafani la vita haramia, mi ha fermato sulla via di ciò che non era giusto, e quindi accetto questa sventura. E questo è Hassan. Però lui dice, c'è ancora qualcosa di meglio di questa sopportazione, che è quella dell'avventura, dice, è la sopportazione nel commettere qualcosa di male. Che l'abbiamo già visto l'altra volta, il male ti alletta, quando vedi luccicare. Io mi ricordo un ragazzo mi diceva una volta, ma io quando andavo in strada, poi per Bologna in una mattina facevo 600 euro a vendere un po' di droga. 600 euretti li mettevo in tasca, poi tornavo a casa, stavo a letto, giravo, andavo a comprare delle cose. Allora, comparato con uno che tutta la giornata a lavorare ci metto 80 euro, ecco, magari per 8 ore di lavoro, allora si vede che uno deve trattenersi. Ma in tutto questo, si può dire che le persone che si trovano momentaneamente in carcere hanno una grande esempio davanti a loro, che è Yusuf Siddiq, cioè Giuseppe. Giuseppe il giusto, Giuseppe che, pensate, fu tradito dai fratelli, nel racconto biblico, il racconto che anche arriva al Corano, fu tradito dai fratelli e fu gettato in una fossa dai fratelli, dai suoi fratelli. Per E il un'invidia. Corano dice che fu in quel momento che fu raggiunto dalla profezia. E poi quando venne portato in Egitto e andò nella casa di un personaggio molto importante a fare il servo, e la moglie, bellissima, si era innamorata di lui, cotta, persa. E lui No? non ci Lui cadde. faceva non c'è stato, non c'è stato, ma mica perché poteva farlo, perché il padrone gli aveva dato tutta la sua casa. Guarda, tu sei il primo della mia casa, tu hai la mia massima fiducia, ma per rispetto del padrone e per rispetto di Dio non ha voluto alzare la mano su questa donna. E anche qua nella tradizione islamica c'è una cosa molto bella, che quando lei lo denuncia, lui dice era scappato da lei, e lei le aveva strappato il vestito, e lei dice: guardate il vestito dove è strappato. Se è strappato davanti, io sono il colpevole. Se è strappato dietro, io sono innocente. Il vestito era strappato dietro. E per questa cosa, per questa falsa denuncia, lui si fa anni e anni di prigione. È veramente un grande esempio della pazienza pur di non fare il male. Un bellissimo esempio e adesso è il momento però di lanciare la musica e io mi ricollego alla bellezza di cui vi ho parlato prima, lanciandovi un brano musicale, anche in questo caso molto famoso, che si intitola You Are Beautiful, quindi Sei bellissima o bellissimo, di James Blunt. Musica. E noi ci rivediamo domani, Ignazio. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. Bentornati su Liberi Dentro, siamo sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko e di del canale 636 di Teletricolore e l'ospite qui con me sempre per questa settimana è Padre Marcello Mattè, che è anche cappellano del carcere della Dotta, che molti di voi, specialmente alla Dotta, conoscono molto bene. Marcello, buongiorno, bentornato. Continuiamo il percorso con te sulla parola, sul Vangelo, che purtroppo non abbiamo il tempo di leggere, ma è il Vangelo secondo Marco, siamo ai versetti 21-28, dove si verifica il primo, l'altra volta abbiamo parlato dell'inizio della predicazione di Gesù in Galilea, e a qui si parla invece del primo miracolo di Gesù. E la domanda che ti volevo fare è, appunto, probabilmente ha un significato particolare questo miracolo, siccome viene collocato così all'inizio. Quale può essere? Si parla di un miracolo di liberazione da uno spirito impuro, cioè da un indemoniato, il quale indemoniato però frequentava la sinagoga. E credo che il significato particolare che Marco vuole attribuire a questo miracolo è proprio perché avviene in un contesto che era quello della tradizione religiosa ebraica. Cioè è abbastanza strano che un uomo posseduto da uno spirito impuro frequenti il luogo di culto di Cafarnao, che era appunto la sinagoga, il luogo di incontro nel quale si leggeva e si ascoltava la riflessione, la meditazione sulla parola di Dio. E però è proprio questo il significato, credo, che voglia attribuire in particolare Marco a ponendo questo miracolo come primo nei racconti dei tanti miracoli che Gesù ha compiuto. E cioè si tratta di un uomo che frequenta la sinagoga, quindi un uomo devoto, pio, un praticante, diremmo noi oggi, uno che va a messa tutti i giorni. E però proprio lui è posseduto da uno spirito impuro. E questo spirito impuro che cosa gli causa? Causa che quest'uomo possa frequentare il luogo più caro alla tradizione religiosa del tempo, degli ebrei, e però non gli cambia la vita. Sostanzialmente questa è l'azione dello spirito demoniaco in noi e in lui, cioè che fa sì che l'ascoltare la parola di Dio non abbia alcun riflesso poi nella nostra vita. Tant'è che quando si presenta Gesù, la parola fatta carne, la parola di Dio fatta uomo, lo spirito impuro dentro di lui comincia, dentro quest'uomo, comincia a urlare e a gridare: allontanati, sappiamo chi tu sei venuto a rovinarci. Sei venuto finalmente a cambiare la vita della gente, a cambiare la vita delle persone, ciò che invece lo spirito demoniaco non vorrebbe che avvenisse in noi per opera dell'ascolto della parola di Dio. Esatto, e quindi quando nel Vangelo si legge che Gesù insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi invece, cosa significa? Credo che significhi proprio questo, cioè gli scribi che sono i maestri, coloro che conoscevano i meandri della parola di Dio, che la sapevano interpretare, che la sapevano comporre insieme, ricordando a memoria diverse citazioni, che traevano però autorità uno dall'altro. Ogni scriba sapeva citare gli altri scribi, citava come testimoni autorevoli, interpreti autorevoli della parola di Dio, altri uomini che avevano studiato la scrittura. Invece Gesù non usa questo metodo, cioè non cita altre fonti, fa riferimento soltanto alla sua di autorevolezza. È per questo che la gente gli riconosce questa autorità, anche perché questa autorità è testimoniata e confermata dai fatti che Gesù compie. E proprio per questa capacità di Gesù di liberare dal male si manifesta più autorevole degli altri scribi. Gli altri scribi potevano insegnare a come liberarsi dal fare il male. Ti insegnavano la retta via, ti insegnavano l'obbedienza alla parola di Dio, in modo da evitare nella tua vita di compiere il male, di farlo, ma non potevano liberarti dal subirlo il male. Invece Gesù, con questo miracolo, testimonia che è venuto anche a liberarci da questa nostra schiavitù al male, dal fatto che il male domina le nostre vite e non basta saper fare il bene per liberarsi dal fare il male, ma bisogna essere liberati per intervento appunto divino da questa suggestione dal male, da questo spirito maligno che dentro di noi ci suggerisce di ignorare o di non ascoltare la parola di Dio. È il momento di lanciare un brano musicale. Chiedo a te cosa lanciamo. Guarda, questa settimana volevo proporvi l'ascolto di Frozen di Madonna, dove si annuncia appunto, dove si parla di questo congelamento che ci prende quando non crediamo in noi stessi, quando ci chiudiamo in noi stessi e quando non ci apriamo all'ascolto degli altri. E l'invito che fa questo brano ci porge è proprio quello: se potessi sciogliere il tuo cuore, forse potrei anche liberarti da questo congelamento che ha preso la tua vita. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Rieccoci sulle note musicali di Madonna, Frozen, e questa spiegazione che ci hai dato anche per come ascoltare questo brano. E l'ultima domanda che ti volevo fare è: perché sempre il riferimento alla scrittura di oggi, cioè poi del 31 gennaio, domenica 31 gennaio, perché Gesù ordina allo spirito impuro dicendogli taci ed esci da lui? L'intimazione, il comando che Gesù dà allo spirito impuro di tacere è proprio quello che fa sì che noi veniamo liberati dalla suggestione, dalle tante voci che dentro di noi questo spirito suggerisce, per invitarci a non ascoltare un'altra parola, ad ascoltare invece la parola di Dio, che si è fatta carne in Gesù, che si è fatta persona in Gesù, quindi a non ascoltare Gesù. Intima lui di tacere perché quella voce, la voce del demonio, sia messa a tacere e possa prendere invece autorità sulla nostra vita la voce di Gesù che ci porta la parola di Dio. Grazie. La prossima settimana ci rivedremo sempre con te per continuare sul Vangelo di Marco con quello che invece sarà un altro miracolo di Gesù, sempre nelle zone della Galilea. E dove saremo in particolare? Saremo nella casa di Pietro e Gesù guarirà la suocera di Pietro, ma questo racconto viene inserito nel contesto della descrizione di una giornata tipica di Gesù, che si inizia il mattino con la preghiera e termina la sera con la preghiera di nuovo. Bene, adesso grazie Marcello, ci rivediamo la prossima settimana. Un brano musicale lo lancio io in riferimento un po' a quello che ci siamo raccontati oggi e lancerei Lucio Dalla a modo mio. Buona domenica e buona riflessione a tutti. Grazie. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande. A chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio. La mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io. Ben ritrovati, siamo giunti anche oggi ai nostri saluti con Liberi Dentro e sempre ricordandovi di scriverci all'indirizzo postale di Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna e all'indirizzo di posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com e ascolteremo, accoglieremo tutti i vostri suggerimenti, da quelli di palinsesto generali a quelli anche musicali. E l'ospite di domani è Maria Inglese, l'avete già conosciuta la settimana scorsa, è la dottoressa psichiatra dell'ASL di Parma e con lei affronteremo una parola chiave del nostro percorso, diciamo, di salute mentale e psicofisica, che è la parola paura. Quindi parleremo del linguaggio delle emozioni. E adesso ci salutiamo e vi auguro buona giornata e domani sempre qui su Liberi Dentro.